Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Parliamo di soldi, spesso lo facciamo appunto con l'Associazione Difesa Consumatori. Siamo in primavera, periodo di scadenze importanti, dichiarazione dei redditi, e questo è l'argomento e uno dei servizi anche che offre l'Adico. Ben trovato il presidente Carlo Garofolini. Sì, ciao Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo in particolare del servizio che voi offrite per quanto riguarda il 730. Sì, Mirko, una novità molto importante è che quest'anno, in un'ottica di maggior servizi che l'Adico vuole offrire ai suoi soci, c'è proprio quello di dare consulenza e assistenza alla precompilazione dei 730. Esattamente, l'Adico rimarrà aperta tutti i sabati di aprile fino a metà maggio e le persone potranno venire tranquillamente all'Adico, troveranno delle ragazze dotate di computer che potranno tranquillamente buttare dentro i dati nel terminale e andare a casa con i 730 già precompilato e quindi già con la dichiarazione e l'incombenza assolta. Servizio riservato ai soci. È un servizio che rivolgiamo chiaramente ai soci, perché come associazione questi servizi normalmente vengono rivolti e sono gratuiti per i soci, mentre per chi non lo è potrà avere l'opportunità con un piccolo contributo di iscriversi all'associazione e quindi sostenere l'Adico su quelle che sono le iniziative che un po' tutto l'anno promuove nel territorio. Una delle novità di quest'anno della dichiarazione dei redditi, sulla quale ci sono state molte polemiche, è la questione della spedizione del CUD, che non è più spedizione ma bisogna ritirarlo online, in particolare penso ai pensionati che hanno avuto qualche difficoltà in più. Ecco, allora amico, uno dei motivi per cui ci ha indotto a organizzare questo servizio è proprio in virtù di questa nuova tassa occulta che Monti ha pensato bene di propinare a moltissime persone, in particolar modo agli anziani che, come hai detto te, erano abituati a ricevere il CUD a casa. Praticamente oggi i pensionati devono andare in posta, richiederlo e pagare 3,40 euro. Invece devono sapere che se verranno all'Adico questo servizio è gratuito e alle persone gli verrà dato i 7,30 tranquillamente senza richiedere nessun centesimo. Ecco, e poi ovviamente tutti i dubbi che ci possono essere per quanto riguarda la documentazione, tutto ciò che serve può servire, se uno per caso si dimenticasse qualcosa tra le tante carte che bisogna portare? Allora amico, come ti ho detto, l'Adico è aperta tutto aprile fino a metà maggio, le ragazze che sono là pronte e organizzate in segreteria offrono ogni tipo di informazione e assistenza, e se il consumatore dimentica qualcosa può tornare anche sabato successivo o inviarcelo per fax in qualsiasi momento. La cosa importante è che il consumatore deve sapere che, come tutti gli anni, quando si deve fare 730 ci si deve recare con la copia dell'ultima denuncia dei redditi, il CUD come abbiamo detto, e tutta la documentazione. Normalmente è sempre preferibile comunque fotocopiarla. Particolari novità rispetto agli anni precedenti non ce ne sono, però chiaramente è un momento molto importante perché invitiamo tutti i consumatori a verificare un po' quanto in suo possesso, perché c'è la possibilità di poter recuperare un po' di soldini nel mese di luglio, che in questo momento, sai, tutto può tornare utile e quindi anche dare per scontato qualcosa potrebbe rivelarsi sempre come una perdita di denaro. E soprattutto poi magari molti non sanno di tanto tante agevolazioni, perché magari le leggi ci sono, le normative ci sono, ma non tutti siamo così informati. Succede anche questo, no? Certo, innanzitutto dobbiamo sapere che con i CUD si ha la possibilità di recuperare gli interessi passivi del mutuo, le spese notarili per chi ha acquistato la prima casa, ci sono le spese mediche, ci sono i medicinali generici di banco che si sono acquistati chiaramente con la tessera sanitaria o col codice fiscale, c'è la possibilità di recuperare le spese sportive per i ragazzi, c'è la possibilità di recuperare le spese di veterinaria per chi ha animali domestici, c'è la possibilità di recuperare eventuali spese per chi ha fatto dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o di recupero di finalizzata al risparmio energetico, quindi beneficiare di una riduzione del 50% o del 36%. Quindi ci sono tante piccole cosine che tenendo conto anche di quella che è la franchigia, vale la pena, quando si conserva tutta questa documentazione, calcolare se c'è la convenienza o meno di poter presentare la denuncia, perché tanti poi credono di non avere diritto a recuperare niente, magari perdono l'occasione, come per esempio anche chi è in affitto, che rientra su una certa fascia di reddito e paga regolarmente, ha un contratto regolare, paga mensilmente dei canoni di affitto, può anche pensare di poter recuperare una parte di questi soldi. Ecco, e quindi è meglio informarsi, perché c'è chi è anche più esperto, chi è un po' più sprovveduto anche su queste cose. Uffici aperti dunque anche il sabato per le prossime settimane, ovviamente è meglio prendere appuntamento. Ecco, l'importante è prendere appuntamento, perché come hai detto tu ci saranno molte persone e rischiamo che le persone che vengono là senza appuntamento magari dover perdere tempo e aspettare magari il suo turno. Allora il consiglio che noi diamo è quello di telefonare all'Adico, prendere appuntamento e se proprio non si ha la possibilità di farlo magari di passare, ma allora di munirsi con un po' di pazienza. Per chi decide di fare il 7:30, ricordarsi appunto la documentazione fotocopiata e di non preoccuparsi per il CUD, perché l'Adico lo fornisce gratuitamente, quindi come detto possono risparmiare anche 3,40 euro. Questo è un servizio che quest'anno si propone come una novità assoluta. Vediamo un attimino dopo la fine di questo periodo il bilancio e speriamo che i consumatori, rivolgendosi all'Adico, possano trovare quelle soddisfazioni che insomma come Adico pensiamo di riuscire sempre a dare puntualmente. Via Volturno 33 a Mestre, diamo anche il numero di telefono 041 534 9637, associazione difesa consumatori.it. grazie al presidente Carlo Garofolini, buona giornata. Sì, io ringrazio te Mirko, e come ultima cosa mi appello a tutti i consumatori anche a venire, perché può essere un momento anche di raccolta di qualche contributo per chi vuole iscriversi, dare qualche euro che all'associazione può essere molto utile, in quanto sono soldi che spendiamo sempre per le nostre iniziative a favore dei consumatori. Buona giornata, grazie. Ciao Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.